Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti e 7 secondi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio 24, il sole 24 ore. Questa è Italia in controluce, sono due edizioni quotidiane che raccontano la cronaca italiana. Vi parla Daniele Biacchesse. Ieri gli inquirenti hanno inferto un nuovo colpo alla 'ndrangheta, arrestando boss delle 'ndrine dislocate in molti luoghi del mondo, dal Canada alla Germania. E in ognuno di questi luoghi le cosche si sono organizzate esattamente nel rispetto della tradizione di origine. Ma come sono strutturate le mafie italiane all'estero? Per esempio, poche ore fa sulle agenzie hanno battuto per esempio le indicazioni della Direzione Nazionale Antimafia, soprattutto sulla Lombardia, dicendo che la 'ndrangheta avrebbe colonizzato addirittura la Lombardia. Sentiamo il racconto di Raffaella Calanda, le cui inchieste le potete ascoltare anche sabato alle 13:15 nel programma Storiacce. La cupola sempre in Italia, gli affari invece sempre più all'estero. Da Sicilia, Calabria e Campania le mafie hanno raggiunto ormai quasi tutti e cinque i continenti per un made in Italy che non conosce crisi, se è vero che solo negli ultimi 10 anni circa 500 affiliati sono stati arrestati in giro per il mondo. Recita la Vulgata che quando i rapporti tra i picciotti e i cugini di Little Italy divennero più stretti, solo allora fu introdotto un volo quotidiano tra Palermo e New York. E se l'epoca dei padrini è diventata negli States un'epopea televisiva da boom di spettatori, ora è il marchio dell''ndrangheta quello più esportato, perché anche solo poche sillabe pronunciate in Aspromonte sono in grado di spostare business milionari di droga, orientare affari immobiliari o eleggere uomini dall'altra parte del mondo. La conferma dell'espansione non solo sul piano del traffico internazionale stupefacenti, ma proprio sul piano dell'associazione mafiosa dell''ndrangheta anche in altre regioni fuori dall'Italia. Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Reggio Calabria, ha coordinato l'inchiesta che ha portato a 41 arresti tra Italia, Canada, Germania e Australia. Laggiù le cosche erano arrivate ad avere un loro uomo, Domenico Vallelonga, anche alla guida di una città come Stirling e già ai vertici di influenti associazioni cittadine. Ma anche se così distanti, tutti dovevano comunque attenersi alle regole della casa madre. L'unità di base è sempre quella che viene definita locale e poi da queste locali estere si mantengono sempre i contatti con la casa madre, cioè con la provincia di Reggio Calabria, dove periodicamente vengono a prendere ordini, direttive e strategie di lungo periodo, a rendicontare quello che avviene. Da Siderno all'Australia noi non possiamo operare perché se non è buono là non è buono neanche qua, registrano le intercettazioni di un'inchiesta che ricostruisce come tra i 7.000 calabresi emigrati in Australia si sia diffuso il peggior modello criminale nostrano, scrive il giudice. Tanto è vero che laggiù la 'ndrangheta uccise anche alti rappresentanti delle istituzioni, come ricorda Francesco Forgione, già presidente della Commissione parlamentare antimafia e autore di Mafia Export. Paese lontanissimo come l'Australia, il vice capo della polizia e il capo dell'opposizione liberale, un deputato, sono stati ammazzati dall''ndrangheta. Del resto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito l''ndrangheta nella blacklist delle principali organizzazioni terroristiche e dedite al narcotraffico con particolari attività di riciclaggio in territorio statunitense. Anche qui da Milano ci sono state delle importanti inchieste che hanno fatto venire alla luce questa rete internazionale del riciclaggio dell''ndrangheta anche attraverso sistemi finanziari molto raffinati. Ma lei ha citato gli Stati Uniti. Ecco, che tipo di affari l''ndrangheta fa negli Stati Uniti? Grandi investimenti immobiliari, grande distribuzione alimentare e investimenti nel sistema bancario. La 'Ndrangheta ha comprato una banca in Australia e una operazione che dalla distrettuale di Catanzaro ha messo a nudo come quelle stesse cosche stavano trattando l'acquisto di due banche in Spagna. Ma per riuscire ad insinuarsi e ad affermarsi anche su queste piazze internazionali, cominciamo ad esempio proprio dagli Stati Uniti, di cui stavamo parlando e di cui ricordavamo la storica presenza della mafia siciliana, ha dovuto in qualche modo arrivare a delle forme di compromesso con la mafia siciliana e con la malavita locale? Questo avviene sempre, è sempre avvenuto, e del resto basta guardare Milano e la Lombardia. La 'Ndrangheta poi è l'organizzazione che tesse la rete delle relazioni non solo con le altre mafie italiane ma anche con le mafie straniere. Quando una grande organizzazione come questa gestisce i grandi circuiti dell'approvvigionamento e della distribuzione della droga, essendo il broker che poi distribuisce alle altre organizzazioni la droga, è chiaro che si tessono queste reti di relazioni tra le organizzazioni criminali. Lo stesso si fa per i circuiti del riciclaggio. Noi nella relazione documentiamo come l'altra forza della 'Ndrangheta sia rappresentata proprio da questa capacità che ha avuto, a differenza delle altre mafie, di creare un doppio circuito, una sorta di autostrada su scala internazionale, una gestita dalla dimensione, chiamiamola per semplificare, più criminale, che è quella dell'approvvigionamento e della distribuzione della droga, l'altra parallela della gestione dei flussi che servono a pagare la droga e poi che servono a ripulire i proventi della droga nei circuiti finanziari e bancari. Abbandonati i paesi italiani, i clan hanno riprodotto, tanto in Australia quanto in Germania o Canada, non solo originari equilibri, tradizioni e regole, ma anche la stessa disposizione topografica. Così, se a Reggio è il torrente Calonipace a separare su due sponde i Labate e i Libri, e a San Luca è la Fiumana Buonamico a tener lontani i due rivali, Pelle Vottari da una parte e Strangio Nirta dall'altro, in Germania, nella Nord Reno-Vestfalia, è il Reno, appunto, a tagliare in due le tribù. 900 presunti affiliati ha contato in Germania il Bundeskriminalamt in un rapporto, e di nuove piante, ossia ultimi entrati, si parla anche nelle intercettazioni dell'ultima indagine regina, che indica le città di Singen, Rilasingen, Radolfzell, Ravensburg, Engen e Francoforte, quelle più infiltrate. Solo dopo la strage di Duisburg qui si è avuta coscienza della presenza dei boss, commenta Petra Reschi, corrispondente in Italia della Zeit. I centri della mafia della 'Ndrangheta in Germania sono soprattutto la regione della Ruhr, poi all'est della Germania, attorno a Erfurt, Lipsia, Eisenach tra l'altro, al sud della Germania, Monaco, e anche nel sud-ovest verso Stoccarda. Il rapporto descrive le loro attività che sono gran parte riciclaggio di soldi attraverso ristoranti, alberghi. Questo clan Pelle Romeo è quello più potente in Germania, a cui appartengono solo a questo clan Pelle Romeo di San Luca 61 ristoranti in Germania. Se la 'Ndrangheta ha puntato sul mercato immobiliare dell'est Europa, la Costa Azzurra invece è stata a lungo terra di riciclaggio della camorra campana, approdata poi sempre più in Spagna, divenuta riparo di latitanti, porto di boss in fuga e tappa intermedia verso i narcotrafficanti sudamericani. Qui tra gli altri fu catturato anche Salvatore Zaso, reggente dei Mazzarella, arrestato da Gianfranco Scafuri, colonnello dei Carabinieri di Napoli. Zaso Salvatore è stato preso nel centro storico di Barcellona, a 100 metri dall'ingresso della Sagrada Famiglia. Si era sottratto la cattura e quindi si era rifugiato in Spagna. Lui in Spagna era conosciuto, si muoveva bene. La Spagna oggi rappresenta in effetti il crocevia europeo delle attività legate al traffico di sostanze stupefacenti. È l'Africa praticamente, perché il più povero, l'unico continente a essere stato raggiunto poco e niente dalle esportazioni di mafia, arrivate invece pure nel sud-est asiatico, marca Maurizio De Lucia, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia. Anche lì sono oramai, possiamo dire, storici i rapporti che Cosa Nostra intratteneva con i grandi trafficanti di eroina. Pensiamo a Kubaikin, che fu processato anche a Palermo agli inizi degli anni 80, frutto delle investigazioni di Giovanni Falcone. Se tutti gli atti, compresa l'ultima relazione della Procura Nazionale, sono concordi nell'indicare nell''Ndrangheta la più forte all'estero, la Cosa Nostra siciliana ci tiene a conservare aperti i vecchi punti. Nel 2008 un blitz fermò una trattativa per il rientro dagli Stati Uniti in Sicilia degli Inzerillo, gli scappati appunto. Le più recenti indagini, il processo è ancora in corso, l'operazione denominata Paysan Blues rivelano che contatti attivi, soprattutto nel campo dei finanziamenti, quindi del traffico di denaro, sono presenti appunto fino a oggi nei rapporti fra la Cosa Nostra palermitana e la mafia degli Stati Uniti. Dopodiché, se guardiamo alle famiglie mafiose agrigentine, anche loro sono storicamente collocate in particolare ad alcune zone della Germania. Il killer del giudice Livatino, in Pullman, cercarono rifugio e lo trovarono in Germania. Dunque esiste una rete di protezione. Una rete che rimane anche con l'ultimo superlatitante, che è Matteo Messina Denaro? Non c'è dubbio che si inserisce in un contesto reticolare, quantomeno europeo, e non dimentichiamo dove Bernardo Provenzano si è fatto operare. Bernardo Provenzano fu operato a Marsiglia. I capi dunque anche all'estero hanno le loro protezioni, anche se poi si nascondono sempre in casa. Bene, bene, grazie alla nostra Raffaella Calanda per questa importante anticipazione, perché mentre in onda Italia in controluce le agenzie continuano a battere in questi minuti quella che è la relazione della Direzione Nazionale Antimafia, per esempio sulla mafia si dice che è vitale e pericolosa e che sopravviva l'arresto dei capi, c'è la conferma che l''Ndrangheta ad esempio colonizza la Lombardia e molte altre cose, continueremo a seguirlo naturalmente nel corso dei nostri giornali radio. A domani per Italia in controluce, 6:30 su Radio 24.